우리 우리. Fruscia però beh, fruscia. Sa, sa, provami inchiofono, provami inchiofono. Radio sei tu. CQ10, c'è qualcuno? Per me caporale, ci siete? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, CQ10. Giulio, scusa se mastico. Siamo tornati adesso dalla spesa di Lidl. Ah, ciao, ciao Marco. Sì, vabbè, che problemi ci sono. Mastica bene, così digerisci subito. Che poi mi sto rovinando l'appetito perché c'è pesce a pranzo, ho il merluzzo. E gira gira dovrei aspettare quello, tanto mi fra pochi istanti ho fatto. Ma poco fa eri tu che chiamavi, che premevi la portante, perché non sapevo se era Claudio. Questo smitter non segna bene, dai, c'è poco da fare. Non capivo chi fosse. Sì, ero io, ma subito mi ha scordato subito il telefono. Dunque ho dovuto tardare, capito? Ho abbassato il ricevitore. Ecco qua. C'è gente in PMR, aspetta che lo abbasso ancora. Intanto i radiatori ancora poca attività. Sento spesso su 430-100 un segnale in digitale su quello che dovrebbe essere un ponte, se è un ponte, e quelle sono comunicazioni digitali. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. 27. No, sentite un PMR. Vieni qua, pirata, vieni qua. Vieni qua. C'è Claudio in PMR. Infatti, lo stavo ascoltando. Sta protestando, o chi sarà? Ma ha detto che c'è uno che sta parlando male. Ed è già da un po' di giorni che si lamentano. Qua non arriva. Zero totale. Io lo sento. Io sento solo lui e basta. Comunque ci sono certe persone, no? Ho capito. Marco, passa il PMR, Marco, che Claudio non può passare il PMR, cioè in 27, che non ce l'ha la radio. E ho tutto smontato, Giulio. Se ci facessimo un canale nostro, il 6 per esempio, non mi piace entrare lì, non più, e dei genitori infatti, questo l'ho sentito, hai sentito quello che hai detto, vai e cacca, Giulio, qua c'ho io tutto smontato, ho lasciato solo il ricevitore, dovrei fare, mettere la... ho sentito uno che ha detto vai e ha detto chiaramente vai a caglia, l'ho sentito quello, forse non l'avete sentito voi. Aspetta Marco, aspetta che sto ascoltando qua, che c'è uno che parla male. Oh Marco, mi prendi, dai. Mi arriva, mi arriva a filo di QRM. Ma io non lo sento proprio, assolutamente. Sarà qualche cane arrabbiato. Mi ho collegato, adesso vediamo se mi ascolti tu. Come sei tu, in larga o stretta? Io? No, te lo cambio. Larga, dai, dai, larga. No, non si può. Non ne ho più, Giulio, di apparati potenti. 4 watt. E sono già a 4, massimo. Poi re ne va più. Tutti quegli apparati li ho fatti fuori da tempo. Sono in mutande praticamente, dai. Non lo sapevo. Non sapevo che mi avevi dati, dai. Vabbè, dai. Io ti sento lo stesso, ad ogni modo, non è che non ti sento. Però c'è un po' di QRM sotto. mangiare quattro chiacchiere già. Già va bene. Vabbè, io avrei preferito un altro canale, anziché lì. Avevo già accennato l'altro giorno, no? Perché? Il Fuji generale. Ok, ma poc'anzi stavo leggendo la qualificazione delle varie frequenze e ci sono dei vuoti in certe frequenze che noi possiamo anche utilizzare. Naturalmente sono delle... Poc'anzi stavo leggendo, tutta la sera che stavo leggendo al computer. Ci sono tantissime frequenze che ancora oggi sono libere, completamente libere. Difficilmente si sente qualcuno, e quando lo sente, sente qualcuno, magari qualche attività commerciale o artigianale, che è anche abusivo, tra l'altro, per cui lo utilizzano per quello. E diciamo che possiamo anche trovarci da una frequenza noi, invece considerato che abbiamo questa possibilità. Ma fammi un esempio pratico, ma cioè al di fuori del PMR? No, anche nel PMR, nella frequenza del PMR, naturalmente andando in altre frequenze. Ad esempio sotto i 144 prima c'è uno spazio e poi ce n'è anche un altro oltre che adesso non lo ricordo, ma se apro il computer lo guardo di nuovo. Frequenze appunto che ci sono degli spazi perché ripeto sono utilizzate praticamente da abusivi del mestierante, dai, sia del commercio che dell'artigianato. Mamma mia, io so che sotto i 144 Ministero della Difesa ha segnato, sembrano vuote, ma adesso non scendiamo in particolari. Va bene, quindi Claudio, vabbè, si è sentato e poi quindi è vicino a te, diciamo, più vicino a te adesso, e c'ha solo quella frequenza lì, ok. Certo, un antennino, si poteva piazzare qualcosa di piccolo, anche una mezz'onda, mi niente radiali. Anche ancora il mio, la dove spara a meraviglia dappertutto, ma crede. E se non molto ci vuole, basta fare un fischio, andiamo e piazziamo subito una bella antenna, o un traliccio addirittura. Quando difenderà lui. Ci vuole poco, mio Marco. Ho voglia. Ma può mettere anche distante dalla casa lì, per dire, un traliccetto, anche un palo, vedo piazzato. Però magari sai, vabbè, magari vuole lasciare la casa vergine senza evitare questioni, magari in famiglia, sai. Vabbè, vedrà lui, dai. Comunque la mezz'onda, non dico che sia perfetta, ma già il quarto d'onda, sai, c'ha radiali, la cinquottava radiali rende di più, la mezz'onda, bello che non ha radiali, è una cosa tutta sviluppata in verticale, quindi non dà fastidio come ingombro laterale. E anche se mi puoi un radiale da un metro, non è che influisca molto, mi in larghezza, figurati. Ma basterebbe anche mettere una Game Master, ma se la potrebbe anche costruire, la stanno fare tutti quella, non è un problema. Per cui, non ho vediato che questo stilo e basta, senza radiare, senza niente, funziona che è una meraviglia, poi da quella posizione dove si trova lui, va a bomba. Per cui, ma se questo non ce la vuole costruire, se la compra una Game Master. Non ci sono radiati, non c'è niente, è poco visibile, per cui non è così brutta nemmeno da vedere, perché non vedi altro che un stivo e basta, niente di più. Certo, vabbè, le Game Master ce la fanno pagare di più, ma per dire, la Sirio mezz'onda o la Midland mezz'onda, è identica, è come la mia ma senza i radiali ed è più corta. però non a bobine larghe, capito? È proprio un silo verticale, bello. Costa anche poco, mi la Sirio alias Midland Mezz'onda. Importante che non capiti l'esemplare difettato, perché mi pare che a qualcuno, proprio con la Mezz'onda, era capitato l'esemplare che ci aveva il filettino del centrale che non toccava, o la massa che era sparita. Come ha fatto a te con la Mantova? Era sparita la messa, il corto, no? L'antenna cortocircuitata, ecco. E quindi un po' di problemi. Devi beccare l'esemplare buono. A me era capitato buono, se no a quest'ora avrebbe già dato rogne. Questa, se darà rogne, li darà per via del tempo, degli anni, no? Invecchierà con la pioggia, col freddo, col caldo. Sì, ma sì, va bene, ma al limite, intanto si diverte perché se la costruisce, se cosa fede? Siamo 30 euro o di più, 35, là, sulla camera da pesca e tutto. Premesso che lui ce l'avrà magari con la trentena, anche io non, questo non lo so, ma se tu non vuole mettere una cosa ingombrante e soprattutto poco visibile, costruirsela una di quelle antenne, come ho fatto io, insomma, e va benissimo, va più che bene, devo dirti che se è fatta bene, o addirittura se la compra direttamente la Game Master è a livello di Mantova, non ti credi che sia inferiore, superiore può essere alla Mantova Turbo, ad esempio, o alla Mantova 5, perché stando a quello che dicono al computer, è addirittura superiore, ha un raggio, un lobo più lungo, per cui non so, vabbè, ancora forse non è possibilitato perché sta facendo anche lavori eccetera, ma prima o poi si attrezzerà. Certo, sì, se lo usa saltuariamente va anche bene, ma perché sai, lì c'hai altre distrazioni, estate c'è la piscina, insomma, un po' anche per distrarsi la campagna, se no, se uno va in campagna a stare attaccato al baracchino del giorno, no, non va bene. Ok, esce Valeria, ma adesso sono ricomparsemi. Come entriamo noi, escono loro, come diciamo noi rientriamo. È una cosa anche comica, Giulio. Lo so, è un attimo qua. Io dico, non è una cosa comica, è una cosa, forse io la considero poco intelligente. Sarò cattivo, ma io, questo è il mio pensiero. Vabbè, certo. Vabbè, non stiamo. Magari noi siamo più spigliati nel parlare, qualche battuta colorita, io soprattutto. Poi ogni tanto io già scantono, no? Infatti anche Claudio quando mi piglia in giro mi dice sei un istigatore. Va bene, il pesce l'ho spento, credo che sia cotto, quasi come che si dice, appropinquiamo a pranzare. Anche perché proprio il nostro stile di vita è sconvolto, proprio il nominativo ratapignara, più che azzeccato, io stanotte devo dire anche che non è che abbia proprio dormito, era dormiveglia, ero sveglio, semi-addormentato e semi-sveglio, tutta la notte. E purtroppo ho dovuto recuperare la mattina, e che devo fare? Vai a mangiare, vai! Buonasera! Ciao Franco! No, stanotte ho dormito tutta la tirata praticamente, perché mi sono alzato a luna, mi sono alzato, permesso che ho cominciato a dormire verso le 11:30. Che mai è che io di solito dormo molto tardi, anche alle 2, però diciamo che ieri notte, forse perché a volte ieri notte infatti non ho dormito molto bene, avevo tante idee in testa, stavo riflettendo tante cose, e invece ieri evidentemente stanco dall'altra notte, mi sono stato a luna, poi mi sono ricollicato perché sono andato in bagno, mi sono svegliato alle 5:30, 6:20 stamattina, tutta la fila. Per cui, ciao fra, avanti. Ciao Marco, buonasera, ciao Giulio, e tanti auguri a tutti. scusa. Mi ha fatto che hai dormito giù, io niente, mi ricordo. Come mai? Ma stavi male perché? Cosa ti è successo per non aver dormito? Negativo, stavo male. Però lì ho fatto la traversata a Genova dopo tutto torre. E manca di dare. Ah, ho capito, hai trovato male brutto allora. questo periodo, viaggiare in nave, no? Non è tanto simpatico col mare che c'è. Vabbè, comunque. Vabbè, ti hai fatto la vacanza fuori allora, la vacanza di Natale fuori. Sì, dal 22 fino sono rientrato stamattina. E niente. No, era bello il mare, bello, non si muoveva per niente, era una tavola. È solo che non ci riesco a dormire con il rumore della nave. Mi ricordava quando ero al lavoro, con tutto il rumore del forno e via dicendo. E non riuscivo a dormire. Avanti, Marco. Ehi, ciao Fra, quindi eri in trasferta? Beh, in inverno un po' così, tra vento, cosa. In estate migliore, tanti no, migliore, poi dipende dai giorni. Gli auguri non ce li avevamo fatti, no, WhatsApp non ce l'abbiamo, io tramite quello li facevo. Buon anno, speriamo che sia per me migliore del passato. Sì, mamma sta reclamando da pranzo, adesso metto nei piatti e dai. Se posso riprendo dopo. Claudio era andato al telefono, non è ancora tornato e poi è in PMR. Lì ci vuole l'antenna Giulio. Però vedi Giulio, anche la Game Master mezz'onda, se è comprata pronta, se la fanno pagare il doppio di una mezz'onda Sirio alias Midland. E quella sì che si può costruire, però sai perché io penso Giulio, preferisco le antenne già premontate di fabbrica, per la solidità meccanica. Certe volte penso che questi accrocchi fatti in casa con un cane da pesca, poi ci sono stati anche casi di Game Master troncate dal vento, troncate anche perché quella lunga, la cos'era, 5 ottavi, 6 ottavi, non mi ricordo. Come dire, era troppo lunga e spesso anche il tubo faceva resistenza al vento, in poche parole. Ecco perché hanno fatto la Game Master mezz'onda. E comunque il prezzo è proibitivo, per un cavo messo dentro un tubo è proibitivo il prezzo. Mi dispiace per l'assirio, ma se la fanno pagare troppo per quello che è. Sì, vabbè, quello sì, Marco, indubbiamente è cara, perché è cara. Visto è considerato il materiale che ci vuole, ripeto, con 30 euro, 35 euro te la costruisci. E poi, ripeto, oggi è facilissimo costruirsela perché uno dal computer stesso ne puoi prendere tutte le misure, ti spiegano tutto indistintamente, per cui non ci sono problemi. E quanto alla resistenza, io devo dirti una cosa, come resistenza, guarda, è resistentissima. L'unica cosa che devi fare è rinforzare dove ci sono gli innesti, e cioè dove ci sono quegli anelli, quella pattina dove si finisce, no? Perché lì si evidentemente è troppo basso. Ma io ti ho messo addirittura un pezzo di rinforzo di tubo da elettricista, quel tubo rigido, lì una quarantina di centimetri ad ogni coso, come si chiama, ad ogni innesto. E poi cravattata sia da una parte che dall'altra, in ambo le parti. Per cui, devo dire che il vento lì qui è soffiato e anche tanto. Guarda che io sono in basso, però in realtà è tutto aperto, qui il vento arriva dal mare, no? Quando arriva il maestrale è fortissimo, per cui devo dire che resiste con la meraviglia. Oscilla molto, quello sì, oscilla moltissimo, ma quello è un altro discorso. Però non fa rumore, non fa niente, va benissimo, io mi trovo benissimo, guarda. E penso che la manta battuta probabilmente non la piacerò più, nonostante che io ce l'abbia sempre lì da una parte. Perciò, avanti Fra! Ehi, va bene, Giulio, però per le misure sì, tutto a posto, però ci deve essere uno strumento per tararla e per fare, cioè non è che a Ucchio non è che tanto, non esce tanto buona. Sì, va bene, più che altro, con certe bande, così, 26, però secondo fanno come tagli le misure si può avere stazionari e cose così, capito? Secondo me ci vuole sempre lo strumento. Un analizzatore d'antenna è la cosa migliore, tipo Rig Expert, quelli elettronici, ti fanno vedere la curva del ROS, il punto di massima centratura, solo che, caspita, costano, cioè finché uno le fa di professione le antenne vale la pena il costo, no? Però per fare l'antenna no. Va bene, detto ciò, dai, vado a mangiare, dai, se posso riprendo dopo. Vai Giulio. Ok. Sì, beh certo, se uno va sulla stazione tanto meglio, ma io cosa? Ne ho tre smettivi, io non so quanto possano essere vari, però diciamo che tutti e tre mi danno le stesse misure. E a primo colpo, rispettando quelle misure mi è venuto al primo colpo, tranquillo. E poi accorda anche dai 10 metri fino ai 20 metri, anzi ci dirò di più, accorda anche in 40 metri. Naturalmente chi ha l'apparecchiatura per poter accordare, come per dire quello che ho io, no? C'è l'accordatore del contenuto, e accorda benissimo, in pochi secondi, non è a dire, se no fosse diciamo in una misura giusta, veramente non avrebbe nemmeno accordato lì. Accorda in 20, accorda in 40, è tranquillo. E poi ogni tanto io controllo le stazionarie, sempre 1 e 1. Si fa 10, 11 e 12 metri fa. Va bene, guarda, va bene. Con 35 euro una cosa del genere, perché 16 ne ho preso di coro, di canna da pesca. L'altro era il capo qua chiave, basta, cosa ho comprato? Mi sembra 10 metri mi sembra che avevo comprato, o 9 metri me l'ha dato, boh, non me lo ricordo, perché erano persone. Non ho più 10 metri, comunque di cavo qua chiave. E invece ho preso il filo, che ce l'avevo già, un filo di polare, basta, non vuole niente. Niente di particolare va bene, va veramente bene. Venga, ma sì, potrebbe uscire anche bene, sai, cosa ti avete fatto? Uscirà bene, tranquillo, senza nessun problema. Però per essere più migliore c'era avuto sempre quella realizzazione. Ok. Ciao Marco, comunque dai buon pranzo, buona cena, cosa devi fare. Niente. Hai notato ieri notte quelli lì chi erano? Sì, quello che stava dicendo, che si stava lamentando, quello del milanese, del Guardia, dalla parte di Milano, quello che diceva, secondo lui, quello là che stava prendendo in giro. Ma in realtà chi è che ci crede a uno fatto del genere? Io non lo sanno creduto, però non sono così maleducato ad andare a dire con la bugiando, ci mancherebbe. Se non ti piace tu ascolta e non credici, cosa vuol dire? Ma quello si stava facendo grande, sai, il professore intelligente, però è soltanto il codice stupidaggi, e poi visto che ce l'aveva tutti contro, ce l'aveva. Per cui lui si stava divertendo, dice, ascoltando, 4 giorni che stava ascoltando. Invece noi che ci siamo divertiti e sentendo le cretinate che ha detto lui, io l'ho preso così. Cosa vuoi che si andava a dire, però là, no, guarda che stai dicendo bugie. No, non si dicono queste cose, battano. Poi se c'è il padronismo di credere o non credere, non c'è senso. Ecco, ieri notte lavoravamo in mezzo a parecchi radiamaturi, ma devi dire sì. Beh, non lo so, quando sento quell'angelino della Sicilia, dice che lui è il radiamatore da 47 anni, poi che cosa ne so. Ma a questo punto non c'è niente da dire. Il radiamatore come il CB, e il CB è come la persona normalissima che non ha mai preso in mano un microfono, per cui adesso c'è questa applicazione e a quel punto lì siamo tutti uguali. Ma questo che si stava facendo credere molto intelligente, invece era un imbecille perché non lo ha detto tante di cose coltivate. Ma questa la tua devi anche rispettare. Io ti dico che sto usando l'MC70, poi io gliel'ho detto come battuta, no? L'MC70, tu. Poi aveva anche detto, una battuta chiaramente. Ma se io insisto e dico sì, sto usando sempre l'MC70, per dire, no? Su quell'applicazione WordTalk, CBTalk, cioè. Tu sei parlo l'egoismo di crederci o non crederci, però per l'educazione non mi devi dire niente, perché se no sei maleducato. Beh, io stavo anche bugiando perché ti sto dicendo una bugia, ma tu sei maleducato perché mi stai dicendo che sto bugiando. È il discorso finalissimo mio. L'altro mi ha fatto ridere, l'ha detto, dice, scusate, non ho capito la domanda, cioè, cos'è l'invece 60, il barrato, no? Si avvia tutto, perché dopo mi ha detto una cosa, perché dopo ha detto che aveva il 9,490, una cosa del genere, della IAESU, ha detto che aveva, ha detto, questo è furbo, questo è l'animatore di nuovo. Beh, sicuramente ce ne sono tanti in ascolto, radioamatori, brutto di quelli patentati, nel vero senso della parola. Io, se devo essere sincero, essendo radioamatore, avrei preferito parlare di frequenze a me che mi competono, e non certamente è un giocato, perché tutto sommato il telefono è un giocato mio. Noi ci parliamo, ci andiamo, però intanto a parlare così nella versione gruppo, per me è una cosa che non mi va molto, la verità. Su canalizzato mi va di più, quello sì, mi piace di più, però su canalizzato devo essere persone medie intorno, se no non si può sentire. Ma per dire, no, anche perché lì, ha visto, ci sono tante persone, alle volte ci sono queste donnine che fanno il tifo, guarda, poi ci sono certe ragazzine anche, una chiacchierata se la può fare chiunque, tanto il radioamatore patentato, perché no? Questo sì. Però ha fatto la figura del cretino, perché lui è entrato al Cambatese, è entrato facendosi tanto grande che secondo lui, secondo me si stava prendendo in giro, ma chi se ne frega, in quel caso lì, anche se fosse veramente così, a parte il fatto che io non ci ho creduto, che lui non ha inventato più niente, lui ha inventato le macchine poi in campo, ma ha inventato quello lì. Però non glielo puoi dire, tu una persona grande, una persona soprattutto che non conosce, cosa gli vai a dire? Ma vai, fa un radio. Devo posso dire se siamo un po' diretti, perché tutti ci conosciamo, è un altro discorso, è diverso, perché c'è una certa conoscenza, una certa amicizia. Ma una persona che tu non sai chi è, non sai quanto è grande, quanto è piccolo, quanto è bravo, quanto è ubriacone o quanto è invincibile, come fai a dire certe cose? Boh, dai. Io perché ho mollato, perché non era giusto che la gente che c'era lì, che quando sono andato a prima volta tutti mi stavano guardando, ho detto guarda c'è un perdere, ho detto mollo, e ho mollato solo per quel motivo lì, perché era il nome, e no, avevo continuato a vedere. E niente, quello là non se ne è accorto neanche, vabbè, ce n'era uno che era vicino a me, a Genova, quello era radioamatore lo stesso. Ok, ho capito. Sì, sicuramente ci sono. Però, no, secondo me uno quando è radioamatore non nemmeno dire io sono radioamatore lì. Perché si passa quasi, questa è una mia idea, un mio modo di pensare, si passa quasi per stupire, tu sei radioamatore, padrone di poter parlare e discutere con tutto il mondo, con apparecchiature veramente serie, e vai a giocarti col telefonino, vabbè, ognuno lo può fare, però io non lo direi, mi toccherei lo stesso, ma non direi io sono un radioamatore, perché che poi il radioamatore è anche un CB, uno che ascolta solamente e non trasmette, quello è un radioamatore, sempre un radioamatore. Poi ci sono solamente le categorie, c'è il radioamatore CB, c'è il radioamatore patentato, ecco com'è. Oppure il radioamatore SVL, SWL, no? Ecco com'è. Aspettate, c'è Torino è pieno di questa gente che parla, è pieno, io tutti i giorni l'ascoltavo in certi canali, ma è pieno, gli unici canali che non entravo era il 5, il 2 e qualche volta il 6, ma i lucrati, dagli uomini alle donne. Sì, ma ci sono quelle, noi a Sassa diciamo, tante barbagliate, chissà, soprattutto quella napoletana, e poi c'è anche quella che parla della Sicilia, ma carità, e va di chi fu, guarda, una donna, fai, comportati bene, che fai, se fai schifo. Cosa, cosa gli vuoi dire? Tu lo sai, le persone non sono tutte uguali, non sono tutte educate, però allo stesso tempo non sono tutte nemmeno maleducate, e dunque gli educate con gli educati, maleducate con i maleducati. Per cui se uno non gli va, se uno ritiene di non dare confidenza a certa gente, non ci parla e basta. Io quando ci sono gruppi così grandi difficilmente sento, ma al massimo posso fare una battuta, ma veramente una battuta e poi basta, mi ritiro tutti. Di solito c'è col gruppo quando ci sono 5, 6, 7, 8 persone, per dire, ma quando comincia a essere 20, come ieri, poi è diventato un canale affollatissimo, ci hanno raggiunto anche i 20-22 persone. Alla fine io mi sono anche ritirato perché non mi andava più, ecco. Sì, perché quando vedono una ruota abbastanza compatta, perché oltretutto non era così indisciplinata, era bella, si scherzava tutto quanto, non c'era nessuno che rompeva le scatole, ognuno diceva le cavolate sue, bombata, e lì si scherzava sopra tutte le cavolate che diceva, però non come altri sporti che usano parole per carità. No, guarda, l'unica canaletta che ho sentito pulita ieri sera era quella di qui, che sono entrato anch'io. Poi c'è il canale 8, la canaletta 8, che ci sono, a volte entra qualcuno che rompe le scatole, però poi va via e la canaletta è pulita, è molto pulita. E niente, gli altri a me no, mamma mia, fatalizzai, io li ascolto sempre, li ascolto perché non mi va, a volte non mi va di entrare o per un motivo o per l'altro, non entro, però mi piace ascoltarli e guardare dove si può più parlare che e gli altri lasciarli andare. Sì, beh certo, no, io adesso ho escogitato un altro sistema, quando sento delle persone che meritano di essere corrisposti al dialogo, io mi segno i nomi in modo che poi mi ricordo eventualmente chi sono e quando giro i canali, che guardo la rubrica eccetera, che vedo che ci sono, potrei anche mettermi all'ascolto e ascoltare e sentire se il discorso, mi interessa, allora posso anche entrare. Io ad esempio quel Diego che c'era ieri sera, quel Fulmine, quel Beppe e tanti altri, c'era anche un certo Renato se ricordo bene, insomma ce n'erano persone. Io cosa faccio? Prendo foto di carta, adesso mi segno tutti i nomi, quando sento, soprattutto col Diego, è una persona squisitissima, perlomeno io l'ho sentito già diverse volte, ed è una persona alla quale merita tanto rispetto, ecco. Per cui non posso dire di no, perché fino ad oggi si è comportato molto bene, si è comportato, è educato, si comporta bene con tutti, non solo con me, con tutti quanti. Per dirti no, c'era anche un'altra volta, c'era un certo CB pirata, dalla Puglia mi sembra, anche quello si è comportato bene, e non è escluso se io lo resento che magari ci parlo di nuovo, per dire no. Bisogna selezionare le persone, perché è inutile andare lì, buttarsi nella mischia e incontrare dei deficienti, non va bene. Invece tu le selezioni le persone, così almeno sei in grado di scegliere a colpo sicuro. Sì, Diego era da Milano, Milano, un torre di Milano penso che era, perché ci aveva tutti noi, ci aveva, non è Milano. E deve essere un uomo anche grande, abbastanza grande, perché di una certa età. E come parlava sembrava un uomo di una certa età, forse più grande anche di te. Ma non credo, casomai un po' più giovane, so che ha avuto un incidente, so che ha un problema ad una gamba, un ginocchio, una cosa del genere. Mi sembra che tempo fa, la prima volta che ci siamo sentiti, mi sembra che mi ha raccontato quello, adesso non ricordo bene, però mi sembra di ricordare quello. Ed è un uomo intorno tra i 55 e i 60 anni, perché mi aveva anche detto, se ricordo ancora bene, che lui non era ancora in pensione perché purtroppo aveva avuto questo problema e non poteva continuare a lavorare e dunque non aveva raggiunto la parte dei suoi diritti, per cui non era ancora in pensione, ecco, non aveva tutti i contributi. E allora, no, ma devo dire che da quel momento si è dimostrato molto, molto in gamba, la verità. Per me è una persona educatissima, ci si può parlare tranquillamente. Sì, sì, sì. No, a me invece non ha dato un'altra impressione, era molto più grande. Non ho dato quell'impressione lì, mi ha dato. No. Mi stavo sbagliando, vabbè, meglio così, se più giovane meglio per lui, solo che uno lavora, poi c'ha dei problemi e niente, e non gli danno niente, è stato italiano quello. Ok, fra, sì, beh certo, ma lo sappiamo, no, come funziona. Aspetta, un attimino che mi attacco la ventola, fra. Adesso magari senti la ventola di dare, ma non è un problema. Perché avevo la radio anche coperto e con il microfono anche sopra, tra l'altro, perché io lo tengo sempre coperto per la polvere, eccetera. Anche il microfono addirittura nel microfono c'è una specie di cuffia, cioè, che lo tengo sempre fisso, non tolgo mai. Mai, tutto per evitare che si possa infiltrare la polvere dentro. Sì, vabbè, già si può pulire, magari. Al limite me lo posso fare in falegnameria e lo soffio con l'aria leggera quando sei in quelle scanalature che ci sono. Però lo tengo coperto così non si impolvera mai dentro quelle scanalature, capito? Perché finché lo passi sulla parte liscia, dove c'è la carcassa, va bene, la pulisci con uno straccio. Però dentro le scanalature come fa? Col pennellino sì, già l'ho fatto. È meglio tenerlo coperto, dai. Sì, no, anche io quando lo uso gli metto le cuffiette, che me lo copre tutto, me lo copre. Poi del resto non mi interessa, l'altro, però dove c'è tutto il microfono ci metto le cuffiette. Cioè ne ho quattro le cuffiette belle grosse, gliele metto quando non lo uso e basta. Poi gliele tolgo quando muovo. Dicono che a volte si sente male il microfono, ma non voglio rilassare, ma no, noi togliamo nemmeno. Appunto, perché adesso, vabbè, dove c'è il dissipatore, lì col pennello già si può pulire lo stesso, poi anche dalla facciata, diciamo, là, davanti allo schermo, lì lo passo lo stesso, tra negli angolini, tra i potenziometri, tra i tasti che ci sono, lo stesso passo, infatti alle volte magari mi si sposta il volume, posso anche, senza nemmeno accorgermi, posso anche uscire sacro, ma suppongo che non mai detto niente, dovrebbe andare bene come sto uscendo adesso. No, io sto uscendo bene, sto uscendo. Cosa ha cambiato da poco fa adesso la radio? Niente? Ma era bellissima prima ed è bellissima adesso. Non ci ho fatto caso. Non mi sembra che c'era la differenza. È bellissima, bellissima veramente. Certo. Adesso c'ho la cuffietta sopra. Cioè, me l'ho messo. C'è molta gente che dice che la cuffietta mi fa qualcosina alla radio. Io non l'ho mai notato. Ma non lo so, io presente ce l'hai tu, il cellulare, no? Il telefonino, era una sacchettina dove prima c'avevo il cellulare dentro. Adesso si è creato il microfono, tanto il cellulare ha la sua custodia giusta, proprio fatta apposta per quel tipo di telefono che ho io. Questa bustina l'ho presa e ci ho tirato il microfono dentro ed ecco che va bene, non lo tolgo mai, anche adesso è sempre così. Poi parlando a distanza da questo microfono non viene nemmeno avvisato, di conseguenza non ci sarà mai umidità nella cartuccia, eccetera, capito? Sì, quello sì. Sì, io le ho prese, io le cuffiette, ho cercato le altre per la l'Ecomaster e quello della Soberta, quello lì ho cercato le cuffie lì a Sassari vicino al riciclo, ma non ne aveva di quel tipo, quel modello lì, e ce ne aveva tutte grosse, tutte quelle coppie grosse grosse. Ok, e io ce ne avevo le signette, ne avevo, però con l'andare del tempo, sai, è sempre una specie di gomma piuma, e col tempo si sono rotte, e allora no, ma non in questo microfono, non ce l'ho mai visto, ma negli altri microfoni ce l'avevo sempre le signette davanti, tipo bicchieri, là, si attaccavano sul microfono, soprattutto nel salenza, però poi col tempo, si sa, sempre pratica, è sempre petrolio, e si sciude, e purtroppo è così. Sì, e poi quelli ogni tanto vogliono messi sotto il rubinetto e lavati e messi asciugare, perché la polvere che si imprime sopra bisogna buttargliela anche giù. Certo, anche per l'igiene, anche perché col tipo di microfono si parla da vicino, questo no, questo addirittura a distanza di tutto il braccio va benissimo. Vabbè, c'è il coso, come si chiama, il... mi sfugge l'aggettivo, il nome del coso. Va bene, siamo mai compreso, dai. Il precompresso, dai, il compressore, dai. Ma io, guarda, sto usando solo questi microfoni, sia al PMR, io uno al PMR e uno qua. Gli altri li ho messi tutti da una parte, li ho messi. E sto usando questi due, perché se mi si rovina uno di questi mi fa male, mentre degli altri non me la sono ricordata. Certo, il processore volevo dire, c'è inserito il processore, per cui io questo è un microfono. Lo uso sempre col processore inserito e con il mic gain, cioè con il potenziometro del volume a 1, e va bene, e così va bene, sempre mi hanno detto che va bene così, se aumento più di 1 allora incomincia a uscire male la modulazione, se invece tolgo il processore posso aumentare anche a 2, 2,5 e forse anche a 3 e va bene ugualmente. No, io preferisco il processore perché c'ha quel punto di coso di amplificato, va meglio, mentre invece per quanto riguarda poi l'impedenza lo uso a 50 col microfono, anziché a 500 lo uso a 50 perché dà un'amplificazione, perlomeno sentendomi io in cuffia, sento un'amplificazione migliore, più colposa. Sì, il microfono va a 50 e sotto c'è un altro tasto che va in là. Va benissimo, va, e lo puoi usare anche con il processore, in tutto. Sì, ma in queste frequenze, come dicevi, il processore va benissimo. L'importante è non andare col processore in banda laterale, in USB, l'SB, quel lì. Perché allora già lo senti che sembra che sia sopra. Sì. Ma la laterale sono stato usato. Vabbè, raramente ci va, ma all'infuori di quando c'è propagazione magari mi viene estate a 27.500, 27.550, 525, lì in quella frequenza lì, già quando ne hai una passata di quello già ti rispondo, non ce ne sono problemi. Sì, a ti grido, non lo credo già che rispondo. Già spara, sono radio che vanno benissimo queste, poi con l'abbinamento con il MC60 sono al top questa radio qua. Sì, io penso proprio di sì, perlomeno, e anche per il timbro di voce che ho io, e penso che per il timbro di voce che hai tu va benissimo nel MC60. Mentre invece Claudio, anche se usano l'MC80 o 85 va bene lo stesso, o addirittura l'MD più 5, perché quando ha messo l'MD di più 5 va sempre la stessa radio, o quasi, diciamo che va benissimo. Vabbè, mi sembra che anche l'S20, come si chiama, mi sembra che anche quello con il microfono, insomma lui esce sempre con la solita modulazione, sempre il solito timbro. Vabbè, quelli sono altri doni di natura. Ecco, ma Claudio esce anche con un microfono originale, esce così, proprio. È la sua voce proprio che è amplificata. Sì, lui ha quel timbro di voce ed è perfetta con tutti i microfoni, certo. Io invece che ho pochi bassi, allora utilizzando così come ti stavo dicendo, col processore e con l'impedenza a 50 ohm, diciamo che mi dà un po' più modulazione corposa, perlomeno sentendomi io in cuffia, io mi sento così. Se invece cambio, sento più toni alti e meno un po' toni bassi. Invece ho trovato, diciamo, l'intermezzo per poter appunto uscire come piace a me, insomma, mi piace in quella maniera. No, io i coccoli più o meno si usano sempre così, io li ho usati sempre così, li ho usati a 50 e in 1000. Va bene, io non è che ho la voce alta, ce l'ho bassa, molto bassa, però con questo microfono va bene, non è come gli altri microfoni che non servono un cavolo, che magari la modulazione te la cambia anche, che la modulazione diciamo le corde vocali non sono quelle che come quelle tipo Claudio e pure altri che ce ne sono, che c'è molto squillante. Infatti no, pure questi microfoni sono tarati perfetti, soprattutto per questa radio qua, fa una meraviglia. Ma che vuol dire, li ha veramente indovinati, sia il microfono che le radio in questa frequenza qua, va veramente bene, altro che. L'unico problema che può avere, che poi si può considerare problema, che poi non è problema, anzi è un pregio, è che ha una sensibilità straordinaria, perché se parlano per dire io per questo momento sono in zona notte, pensa che sotto c'è zona giorno, salone, poi c'è la tavernetta, se parla dalla tavernetta a voce alta, già questo microfono riesce a captare il segnale, oppure se passa di strada qualcuno che parla a voce alta sente anche quello che sta passando di strada, nonostante che la finestra è chiusa, per dire, no? Hanno una sensibilità eccezionale, non a caso ti consentono di parlare anche a distanza, intanto a voce bassa e allo stesso tempo a distanza di tutta la lunghezza del braccio, per cui va benissimo così. Sì, ma sono così con questo microfono, si sentono, perché io lo sento, sono sopra, diciamo, quasi nella terrazza, là, e da giù qua si sente chiaro uno se chiama, tutto, si mettono a parlare, via, si sente con questo microfono. Sì, infatti, sono sensibilissimo. Io penso che questi microfoni, se ricordo bene, quasi una volta stava dicendo che questi microfoni funzionano ad esempio come interruttore che c'è sotto nel microfono, nella base, sotto, in e on o cosa c'è, qui o una cosa del genere. Penso che si possa mettere anche la batteria interna, vabbè, adesso è diventato da questa radio, però è un po' diventato. Penso che si possa mettere anche la batteria interna, io non lo so come dentro, non l'ho mai aperto e tantomeno non ho mai aperto il 44, non so come è fatto dentro, se non lo avessi visto magari in fotografia non saprei nemmeno come è fatto dentro, per dirti no, ma c'è tanta gente curiosa che prende, smonta, guarda, controlla, forse la curiosità di vedere dentro come è fatto. Penso che si possa mettere anche la batteria, credo, adesso non mi ricordo bene, ma mi sembra che una volta abbiamo detto anche quello, che si può mettere anche la batteria dentro. un baracchino, diciamo, questo adesso tutto la presa del telefono, con un lusso, e cambiarli la modalità dal pulsante. Ok, sì, beh, in effetti sì, perché anche perché seppur poco si è ripreso l'atelino, pensando che questo è alimentato con 8 volt dalla pilota tramite la radio, evidentemente questo se lo dovessimo utilizzare con una radio che non ti dà la corrente di alimentazione, per il microfono evidentemente si può mettere la batteria, funziona alla grande anche con la batteria, penso che sia sì. Deve essere preparazione, ci deve essere. Sì, già di senso, c'è preparazione, sicuramente c'è preparazione. Poco fa ho fatto un giro in tutta la Sicilia. Sì, si sento, lei ha voglia. Ogni tanto, anche se siamo d'inverno, può succedere questo. Vabbè, oggi ha fatto una bella giornata, non era tanto brutta, era un pochettino freddina, ma poco, però se ti metti di al sole ci stava bene. Sì, in effetti è così, di un paio di gradi è abbastanza, anzi più di un paio, e dunque stamattina infatti ho sentito il telegiornale, dove Sardegna, io alle 7:30, no, facendo TG Sardegna, che danno il telegiornale su Rai 3, e il meteorologo ha detto che in certi posti addirittura è sceso anche sotto 5, cioè 0,5 per lui, 5 gradi sotto 0, nella parte del nordese, però in quella zona lì, no, in posti alti, eccetera. E per casa lì addirittura aveva raggiunto la quota 1, ma questo in mattinata, presto. Poi quando sono uscito da casa la macchina mi stava segnando 6 gradi stamattina, forse tanti non lo so perché non ho più controbatto. Sì, c'era il sole, una bella giornata, però sa, l'aria era un pochino fredda. Sì. Guarda, io ne sono andato a Torino, sono andato via che c'erano 6 gradi. Poi ha cominciato durante la sera a abbassare ancora la temperatura, sono arrivato a Genova, ho chiamato mio cognato, mi ha detto dice a quanto è lì a Genova? Ha detto qua è 12-13 gradi, qua siamo scesi a zero, siamo scesi, e questo è verso le 8. Sì, certo, ma anche nella Bassa Italia oggi c'era la neve, avevo sentito che avrebbe nevicato, per cui ci sarà stata senz'altro. Io adesso il telegiornale della sera non l'ho visto, dopo magari più tardi già lo guardo, però c'era sicuramente la neve, perché l'aveva previsto e il meteo l'aveva previsto, e quando lo dice il meteo lo sbaglia, è solo questione di tempo, di ore magari anche, però arriva, quando si dice arriva la neve c'è e basta. Sì, ieri a Forni, ho visto a Forni che era meno uno erano a Forni, a Forni è scesa la neve, ma di brutto. Sì, a Forni, ma a Forni è scesa già un mese fa anche, non è adesso solamente. Lì in altura, nel Giornadino, è scesa anche un mese fa, quel periodo che aveva fatto più freddo, poi il tempo si è addolcito un pochino e siamo andati avanti così con una temperatura più mite, però oggi era più freddo e oggi era freddo, per cui la neve sicuramente c'è, già lui dovrebbe chiedere, lì è alto, lì è molto in alto, è arrivato tutti gli anni, lì non manca mai la neve. Lui guarda, io ho tutti così, no? Dove vado mi disegno, mi rimetto nelle cose. Ho fatto da Sorso, Roma, Firenze, Milano è a 3 gradi, Firenze 2 gradi, Napoli 3, Torino 4 oggi, adesso, a Fondi è a meno 3, ieri a meno 1, adesso va a meno 3 a Fondi, guarda. Sì, certo, già stamattina, presso, aveva detto in quella zona lì, se non mi ricordo dove era proprio il paese preciso, addirittura in un posto meno 4 e l'altro meno 5, perciò c'era senz'altro freddo e se l'avrebbe non arrivato stava per arrivare, a quella temperatura l'avrebbe arriva. Sì. Aspetta, noi stesso non è che stiamo tanto bene, a meno 4, a 4 siamo, 4 gradi, aspetta, sta andando scendendo. Sì, già lo credo, vediamo un po' qui alle punte, aspetta che guardo un attimino, vediamo qua, se arriva, aspetta, a me ne arriva diretta sempre, è sempre in aggiornamento, no? Il meteo a me ne arriva sempre in aggiornamento, direttamente, infatti tutte le volte che apro il telefonino, c'è sempre la temperatura, vediamo di togliere questo togliamo lì, allora meteo, vedete, ecco si sta aprendo a posizione, vediamo un po', adesso subito te lo dico. Sì, dovrebbe essere 4 gradi, dovrebbe essere, come cazzo è? Aspetta un attimo, che l'ho preso, ecco qua, si è aperto, 3 gradi, no, giovedì 3, aspetta, 5 gradi in questo momento, per cui non è poi così tanto, 5 gradi. Capo, un grado più di Sassari, sì, Sassari è 4, vabbè, non è quella la variazione, perché poi quel grado lì mai viene. Sì, un grado non è molto, non c'è questa grande differenza. Domani sarà anche di meno, penso, sicuramente domani sarà anche di meno. Cioè, voglio dire, di meno nel senso più freddo, per cui se ne può vedere, vabbè. Tempo suo. Lasciamolo fare. Già lo...